modo molto attento, quasi simultaneo all'attualità, e quindi è inevitabile che l'attualità mi metta in difficoltà. Voi tutti avete visto cosa è successo negli ultimi giorni e non possiamo non tenerne conto. E avete visto quello che è successo in Francia e quello che è successo in Grecia. Quello che è successo in Italia sinceramente mi sembra relativamente secondario al momento, ma quello che è successo in Grecia e in Francia è invece importantissimo dal punto di vista della ridefinizione del quadro europeo e quindi del quadro della crisi finanziaria. In Francia ha vinto le elezioni un socialista che ha fatto ha posto a fondamento del suo programma, che poi vedremo se sarà in grado e se vorrà rispettarlo, ma i primi segnali dicono di sì, ha posto a fondamento del suo programma il non riconoscimento del fiscal compact, che vuole dire dell'accordo fondamentale imposto dalla Banca Centrale Europea e dalla Germania nel corso dell'ultimo vertice europeo del dicembre 2011. Fiscal Compact essenzialmente prevede l'introduzione di un principio in tutte le legislazioni europee, il principio secondo cui il bilancio deve essere in pareggio, che è una cosa che non succede mai, che non è mai successa, che sembra l'utopia assoluta. Il bilancio deve essere in pareggio, vuole dire che si deve abolire il debito, diciamo così, e invece tutta l'economia degli ultimi 30 anni si fonda su debito. Un debito, come sappiamo, virtuale, destinato costantemente a crescere e in qualche modo dunque inesigibile, che non può essere richiesto, che non può essere pagato. Negli ultimi 30 anni il principio dell'inesigibilità del debito era diventato quasi un'ovvietà, cioè tutti sapevano che il debito non sarebbe mai stato pagato, mai stato richiesto, esigito. Non si sarebbe mai preteso il pagamento di quel debito. Io credo di avervi letto una frase di Baudrillard del 1996, è così? Qualcuno se la ricorda, una frase in cui Baudrillard dice il debito è un... anzi, Baudrillard per prima cosa descrive... Lui dice sulla piazza di Parigi c'è un orologio che conta i secondi che mancano alla fine del XX secolo, era 96, la piazza di Beaubourg, non so, di Saint Pompidou, non so se la conoscete, lì accanto negli anni 90 c'erano due orologi, uno contava i secondi che mancano alla fine del XX secolo e l'altro contava la crescita del debito americano. No, sì, a Times Square c'era l'orologio del debito americano. E Baudrillard dice, ma questo debito evidentemente è una cifra fantastica, nel senso che nessuno mai penserà di pagare questo debito o di chiedere che questo debito venga pagato. È come se il debito fosse entrato in orbita, dice lui, intorno alla Terra. Il debito gira intorno alla Terra. Se mai capitasse che questo debito virtuale cade sulla Terra, sarebbe la fine di tutto quello che noi conosciamo. Ma questo non accadrà mai, dice Baudrillard, che generalmente aveva molto fiuto per il futuro. Però qui la cosa gli sembrava, lui che pure era un pensatore eccessivo, un pensatore sempre capace di immaginare l'inimmaginabile, però questo era troppo inimmaginabile perfino per lui. Lui dice che il debito è una misura dello scarto fra la nostra capacità produttiva e la miseria dell'economia. Perché poi il punto è questo. Supponiamo che scompaia l'intero sistema finanziario, scompaiono le banche, scompare il debito, scompare il denaro perfino. E tu che sei capace, poniamo, di montare dei computer o delle radio, forse per questo smetti di essere capace di montare radio? Assolutamente no. Io che ho una buona memoria, forse per questo smetto di avere una buona memoria. E le nostre competenze scomparirebbero nel momento in cui il quadro, il contesto che io chiamo semiotico, perché semiotico? Perché è il contesto che semiotizza, che dà un segno alla realtà delle nostre competenze. Forse se il contesto semiotico finanziario scomparisse, il mondo della produzione e delle competenze, dei saperi e della potenza reale scomparirebbe? No, continuerebbe ad essere lì. Naturalmente una cosa scomparirebbe, è la differenza fra chi ha tantissimi soldi e chi non ne ha. E a quel punto, dunque, lo dico tanto. Poco ve ne renderete conto, siamo sul. Non lo dico io, lo dice uno che si chiama David Graeber, che è autore del libro Debt, di altri libri che stanno uscendo in giro per il mondo, professore di economia a Yale, licenziato dalla seconda università del mondo per importanza, Yale, perché è anarchico, e quindi adesso insegna a Londra, ha dovuto abbandonare gli Stati Uniti, però ora c'è ritornato con tutto quello che sta succedendo. Bene, dopo che è uscito il suo libro, lui ha ricevuto una telefonata da un dirigente della Federal Reserve, della Banca Nazionale Americana, che l'ha invitato a cena. E adesso ha ricevuto un invito anche da un dirigente del Partito Socialdemocratico tedesco, che l'ha invitato ad andarlo a trovare. E lui mi ha scritto ieri dicendo: sono messi molto male questi nostri nemici di sempre. Se chiamano a cena a me, vuol dire che sono la frutta, la fruttissima. E poi mi ha scritto il giorno dopo dicendo: sono andato a cena con quello della Federal Reserve, mi ha detto che entro 3 anni lo Stato nazionale americano fa bancarotta, conti alla mano, perché si è messo in moto un processo che Baudrillard aveva detto non accadrà mai, cioè il debito deve essere pagato. Cosa succede? Gli Stati Uniti, come sapete, hanno un debito con la Cina che equivale a molte volte il prodotto nazionale, cioè è un debito che nessuno è in grado di dire quant'è, perché non ci sono le parole per dirlo, cioè trilioni di trilioni, benissimo. E cosa succederà a quel punto? Allora, ci troviamo in una situazione che si chiama situazione di inesigibilità, il debito non è più esigibile. Tutti lo sanno, però tutti fanno finta di non saperlo perché finché non lo sanno, o fingono di non saperlo, continuano a incassare. Le banche tedesche e francesi, che negli ultimi 20 anni hanno prestato soldi alla Grecia. Perché hanno prestato soldi alla Grecia? Perché la Grecia comprava armi prodotte dalle fabbriche tedesche e francesi. Quindi le banche prestavano soldi. E la Grecia restituiva alla Francia e alla Germania quei soldi comprando dei sistemi d'arma del tutto inutili, inutili, che la guerra con la Turchia prima o poi, boh, non si farà mai quella guerra, se ne farà un'altra, ma comunque compravano. A questo punto la Grecia non è più in grado di pagare le banche tedesche e francesi. E cosa succede a questo punto? Tutti sanno che prima o poi la Grecia fa default, queste elezioni accelerano il processo, d'altra parte ha vinto un partito, Syriza, che è incaricato di formare il governo, non potrà formarlo certamente, comunque il partito che ora è incaricato di formare il governo ha detto noi non riconosciamo il debito. Quindi cosa succederà se si forma questo governo? Non si formerà, andranno nuove elezioni, le nuove elezioni non riusciranno a risolvere il problema. Insomma, comunque, cosa succederà quando prima o poi la Grecia dirà a chiare lettere quello che tutti già sanno, cioè che il debito non si può pagare? Non so cosa succederà, però intanto tutti fanno finta di non saperlo, perché così la Grecia nel frattempo continua a pagare, le banche tedesche e francesi continuano ad avere respiro per altri 3 mesi, 6 mesi, un anno. Ora, cosa succede se, come pare probabile, cioè, no, nessuno vede un'altra via, nessuno vede che cos'altro possa accadere se non il default e l'inesigibilità dichiarata. Anche quello che va a cena con il mio amico David Graeber, dirigente della Federal Reserve, gli dice qui fra 3 anni noi facciamo fallimento, la California già sta dichiarando che non ha più soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti dello Stato e così molti altri stati americani. Prima o poi l'Unione dovrà riconoscere di non avere più soldi per pagare i suoi dipendenti, questo vuole dire poi il fallimento. Cosa succede in un caso come quello? Beh, dal mio punto di vista succede semplicemente, semplicemente lo dico per prendermi in giro, per tranquillizzarvi, e semplicemente succede che il contesto semiotico che tiene insieme la cosa, che è poi il denaro, si dissolve, viene meno, che ciascuno comincia a ragionare secondo una logica che non è più quella dello scambio a mezzo denaro, cioè tu avrai bisogno di una badante per tuo nonno, supponiamo, e alla badante darai non più dei soldi, ma dei beni che ti procuri in cambio di una tua prestazione intellettuale o della tua capacità di fare siti web, e che fai per conto del droghiere dell'angolo che darà a te in cambio dei siti web in baratto. Il baratto è ritorno ad una forma molto elementare che non regge naturalmente un sistema complesso, quello presente, ma in Grecia in questo momento stanno proliferando, lo diceva la Repubblica l'altro ieri, stanno proliferando i danari di comunità, le monete di comunità, cioè in certi quartieri, in certe città. Si usa una moneta che si chiama tarma, in altre una moneta che si chiama obolo, e così via. Cioè, la gente crea delle monete che valgono all'interno di un certo territorio e che testimoniano il fatto che tu hai fornito un servizio per la comunità, hai prodotto una cosa per la comunità. Quindi la comunità ti deve 2 chili di pane in cambio di quella cosa che tu hai fatto. Sta proliferando già nel paese più esposto, in Grecia, c'è anche in Italia una cosa che si chiama SHEC, che comincia a diffondersi. Ecco, ad un certo punto si creano delle forme di autogestione della vita produttiva collettiva che tendono a sostituire la forma economica dominante. Diciamo, il capitalismo è chiaramente in agonia. Cioè questo, se uno lo nega, vuol farlo spiritoso. Il capitalismo è in agonia. Il problema è che questa agonia comporta un'agonia dell'umanità stessa, cioè il capitalismo ha penetrato così profondamente le nostre forme di vita, le nostre attese, le nostre capacità linguistiche di scambio, che non siamo più in grado di agire senza quella forma, oppure l'umanità è in grado di produrre delle modalità di scambio di linguaggio. Oh, io penso che la questione è questa. La questione è questa, cioè noi nei prossimi anni, credo, poi naturalmente mi sbaglio sempre, mi sbaglierò anche questa volta, ma credo che nei prossimi anni ci eserciteremo intorno ad una questione colossale, gigantesca. È possibile emancipare il linguaggio dal denaro? È possibile emancipare la produzione dal rapporto capitalistico, dalla forma capitalistica della produzione? Se lo avessi detto 5 anni fa mi avrebbero ricoverato in manicomio. Luca sarebbe andato a telefonare alla unità sanitaria locale, sarebbero venuti, mi avrebbero messo una camicia e mi avrebbero detto: venga professor Berardi, ce lo racconta agli infermieri. Se lo dico adesso, è quello della Federal Reserve, deve dire: ma forse hai ragione tu. Capite che cosa sta accadendo? Lui dice che ti esprimo così per consolare qualcuno. C'è una, la puoi vedere come una cosa drammaticissima, ma la puoi vedere invece come un'avventura intellettuale straordinaria. Io vorrei vederla così, è che oggi sono di cattivo umore, quindi faccio fatica, ma preferisco intellettualmente vederla come un'avventura eccezionale, che io non speravo che nella vita, dopo tante delusioni, avrei assistito all'agonia del capitalismo e sarei stato posto di fronte alla sfida intellettuale, anche politica naturalmente, anche esistenziale, di inventare un altro modello. Non è il comunismo, non il comunismo del XX secolo. Cos'era il comunismo? Poi la smetto, giuro che all'una smetto e comincio a fare lezione. E, ciao. Cos'era il comunismo di cui si parlava nel 1917? E, che non è mica chiaro, perché non l'abbiamo mica capito. Ma insomma, quello che è stato sperimentato sotto la voce comunismo, in Unione Sovietica ad esempio, è essenzialmente la nazionalizzazione dei beni di produzione, o la statalizzazione, o la non socializzazione, statalizzazione. Cioè tutti i sistemi di produzione, i beni di produzione, ci sono delle sedie da qualche parte, se no procuratevele, vennero nazionalizzati, cioè divennero proprietà statale, e il sistema produttivo venne sottoposto ad un'unica autorità, che era l'autorità politica, autorità politica che si era insediata con la forza e che manteneva il potere con la forza, che non si è mai sottoposta ad una verifica democratica, ma che in nome di un'emergenza manteneva questo potere chiamato dittatura del proletariato, che non era affatto una dittatura del proletariato, era la dittatura di un partito che aveva nazionalizzato l'insieme dei rapporti di produzione. Naturalmente un sistema così funzionava, perché ha funzionato sul piano economico, ha funzionato fino al punto che un paese economicamente arretrato come la Russia zarista è diventato uno dei principali produttori di alte tecnologie e così via. Ha funzionato, ma a patto di una miseria esistenziale politica immensa, e a patto anche di una... non ci sono più sedi, sì, ce n'è una là. A patto di una lentezza nei processi di innovazione che alla fine ha fatto crollare il sistema. Dico questo per dire che, se è vero quello che stavo dicendo prima, cioè, lo dico per chi è arrivato tardi, perché così spaventiamo tutti, che quello che sta succedendo ci avvicina sempre di più ad un collasso definitivo del modello semiotico che abbiamo chiamato capitalismo. Poi cerco di chiarire cosa vuol dire il modello semiotico. Se è vero questo, ciò che viene dopo non sarà la nazionalizzazione. Che nazionalizziamo a fare? Che vorrebbe dire in una situazione come quella presente nazionalizzare, sottoporre tutto all'autorità dello Stato? Io credo che nelle condizioni di complessità e anche diciamo di ricchezza e di vitalità, di competenza della società, quello che può accadere è semmai la creazione di tante comunità che si autogestiscono che si autogestiscono prima di tutto sul piano dello scambio, sostituendo il denaro con delle forme di scambio. Uso l'espressione modello semiotico per intendere ciò che abitualmente chiamiamo capitalismo. Karl Marx dice che il capitalismo è un rapporto di produzione basato sullo sfruttamento del lavoro operaio e sulla accumulazione di valore, di capitale. Questo dice Marx. Dunque lui parla di rapporto. Il capitalismo è un rapporto fra la classe proprietaria e la classe lavoratrice. Va bene. Però io ho bisogno di un'altra definizione. Questo non che non sono in disaccordo, certo, credo che sia una buona descrizione quella che si fonda su un rapporto fra chi lavora e chi accumula valore, ma non mi basta, perché qua il problema con cui stiamo facendo i conti oggi non è tanto un problema relativo, o non è solo un problema relativo alla produzione, è soprattutto un problema relativo alla all'indebitamento, al credito, alla disponibilità di capitali per avviare l'impresa. Quindi è un problema che mi sembra essere legato quasi quasi più allo scambio, alla circolazione che alla produzione. Cioè noi non siamo, non, il paradosso è che noi siamo ricchissimi. Cioè chi dice l'Europa è in crisi, l'Europa è povera, ma dove? L'Europa non è povera, l'Europa possiede competenze e capacità produttive e ricchezze. Aprite l'armadio di casa vostra e ditemi quanti maglioni ci avete dentro. Andate nel garage, magari adesso sto parlando, magari Luca è poverino, guarda come viene qua, c'ha neanche un maglione, glielo devo prestare io, ma insomma il cittadino medio dell'Occidente dispone di una quantità di beni accumulati nel corso dei 100 anni passati o dei 60 anni passati che garantisce un livello di sopravvivenza elementare, soprattutto se pensiamo ad una redistribuzione dei beni disponibili. È chiaro che alcuni non hanno nemmeno quel maglione, lo devono andare a chiedere alla Caritas, e alcuni non hanno i soldi per mangiare, ma se redistribuiamo le ricchezze esistenti, è evidente che l'Occidente, l'Europa in particolare, non può essere definita povera, nel senso che qualcuno è costretto a morire di fame. Se pensiamo poi alle competenze, la scolarizzazione di massa ha creato una ricchezza di competenze inutilizzate, per cui metà della forza lavoro intellettuale scolarizzata è disoccupata. Se noi fossimo in grado di mettere al lavoro, alla produzione, insomma, di rendere attiva quella parte della popolazione, rendetevi conto di quale ricchezza, eppure non siamo in grado. Perché? Perché il modello, e qui spiego cosa vuole dire semiotico, il modello che tiene insieme, che semiotizza, che significa, che rende sensato, che dà senso o che introduce all'interno di una forma che siamo in grado di comprendere e riprodurre. Dunque, il modello linguistico, ciò che ci permette di esprimere in parole, ciò che ci permette di rendere linguistico dunque comunicabile, e perché comunicabile dunque riproducibile, ciò che ci permette di mettere in parole le nostre competenze e i nostri bisogni, è il capitalismo, cioè un sistema basato sul fatto che alcuni lavorano molto e altri non lavorano affatto. Alcuni lavorano molto perché così i profitti crescono, pagando pochi salari, e in cambio dei profitti che crescono prendiamo dei salari che sono a malapena sufficienti per pagarci ciò di cui abbiamo bisogno. Questo dunque è inoltre un modello che si fonda sulla accumulazione e sull'indebitamento. È un modello che non funziona più, che non funzioni più non lo dico io, lo dice il dirigente della Federal Reserve americana, lo dice Warren Buffett, che è il più grande capitalista del mondo, che qualche mese fa ha detto: mi vergogno di pagare meno tasse io della mia segretaria. Lo dice la lettura dei giornali, insomma, quello che accade mostra che non funziona più. E però non siamo in grado di dire la cosa in un'altra maniera. Cioè non disponiamo di un modello semiotico capace di esprimere la potenzialità produttiva e la potenzialità dei saperi di questa società secondo un modello diverso da quello fondato sul profitto, sulla competizione, sulla crescita, sullo sfruttamento, sull'accumulazione. Quel modello che si chiama capitalismo. Chiamo questo modello semiotico, anziché rapporto di produzione, non perché non sia un rapporto di produzione, certo che lo è, ma a me interessa vedere tutto questo da un punto di vista che è quello della dicibilità, ciò che la semiotica ci aiuta a fare, cioè mettere dei segni che ci permettano di rappresentare determinati fenomeni e di muovere determinati fenomeni, perché gli esseri umani sono fatti così, dispongono del linguaggio. Se io voglio dire ho freddo, se voglio che tu mi dia una coperta, devo disporre degli strumenti per dire che ho freddo, e se voglio ottenere un pezzo di pane, devo dire che è chiaro. Cioè, il linguaggio, l'ho detto fin dall'inizio, il linguaggio e il denaro hanno qualcosa in comune. Sono nulla e muovono tutto. Sono nulla. Perché cos'è il linguaggio? Non c'è se io non l'agisco. Non è nella mente di Dio. Non è nella natura. Il linguaggio esiste nel momento in cui io, un essere umano, che è cresciuto all'interno di una comunità umana, proferisco parole dotate di senso per gli altri umani. Se io proferissi parole che non sono dotate di senso, non ci sarebbe il linguaggio, starei lì a emettere suoni. Ma nel momento in cui gli esseri umani scambiano segni dotati di significato, e nel momento in cui questi segni dotati di significato si riferiscono a degli oggetti reali, o meglio ancora, mettono in movimento, producono, scambiano degli oggetti reali, a quel punto noi disponiamo di un linguaggio capace di fare mondo, di muovere il mondo. Ora, il problema è che il linguaggio che muove il mondo lo muove secondo dei modelli, chiamiamoli modelli semiotici, e Il modello semiotico è un insieme di segni che alludono o che muovono la realtà e che entrano in contatto, in congiunzione, in connessione fra di loro in maniera tale che gli agenti del gioco si capiscono, sanno di che cosa stiamo parlando, agiscono le loro competenze in maniera tale che ne viene fuori una sopravvivenza più o meno buona per tutti e che la questione va avanti. Ma quando non va più avanti, che dobbiamo fare? Dobbiamo modificare il modello semiotico di cui disponiamo. Non finisce il mondo, perché noi, in quanto esseri pensanti, capaci di creazione, invenzione, di competenza, di manipolazione delle cose, di innovazione tecnologica, di applicazione tecnologica, noi ci siamo lì, sappiamo fare quelle cose e continuiamo a saperle fare. È il modello semiotico che ci permette di agire in maniera efficace che non funziona più. Ecco, e dunque è sul modello semiotico, è sul... Scusa? No, ho sentito qualcosa, niente, ho le allucinazioni. Basta, volevo dire questo introduttivamente perché non smetto di fare confusione, cioè ho proposto di smetterla, di procedere così, cerchiamo di procedere in modo lineare e poi invece no, succede quello che è successo nelle elezioni francesi e greche, e le elezioni francesi e greche che, come sapete, cambiano la prospettiva, per il meglio o per il peggio lo vedremo, mi costringono a fermarmi un attimo e riflettere anche su questo. Però, nei giorni scorsi io vi ho mandato una modesta scalettina, modesta no perché è esagerata come quantità di argomenti a cui fa riferimento, però noi non ci preoccupiamo perché non pretendiamo quello, è che all'esame uno deve portare queste cose qua, all'esame porta quello che vi pare. E porterete un testo e, avendo seguito questi sproloqui, credo che avrete acquisito alcuni elementi di conoscenza, di comprensione o anche semplicemente la curiosità e una bibliografia. Due cose non irrilevanti. La curiosità e una bibliografia sono un bel passo in avanti rispetto a niente. E poi, procedendo, grazie alla curiosità, potete anche leggervi la bibliografia o parte di essa. Quindi, in questa scaletta io ho cercato di rimettere in ordine gli elementi sparpagliati nelle 4 settimane, nelle 4 lezioni precedenti. E come vedete, in questo ordine voi ritrovate un po' tutti gli argomenti che abbiamo trattato fino ad ora, però li ritrovate disposti secondo una logica. E questa logica è, prima di tutto, io ho cercato di concentrare l'attenzione su questa analogia che vi ho proposto fin dall'inizio, che non è un'analogia ovvia, l'analogia fra linguaggio e denaro. Potremmo anche dire che linguaggio e denaro è il titolo del corso, o forse il denaro come forma linguistica, o meglio ancora il denaro come forma semiotica. Ma insomma, allora inizio con un capitolo, una parte dedicata al rapporto fra linguaggio e denaro. E ve lo leggo, vi leggo la scaletta, così vediamo come procediamo. Tutti sono informati dell'occupazione della Torre Galfa, dentro cui si è insediato Macao. Allora, gli occupanti... Sei informata? Sì, so che sabato c'era I ragazzi della Torre Galfa mi hanno chiesto di portare queste lezioni dentro Macao. Io ho detto che non posso deciderlo io, occorre che lo decida il gruppo di persone che seguono le lezioni. Quindi io adesso ve lo dico, poi alle 3:30 e mezzo appuntamento con qualcuno di loro là e niente. La mia proposta è che la settimana prossima facciamo due lezioni a Torre Garfa. Se, e accanto alla stazione centrale, all'angolo fra via Farini e via Galvani. Qua vicino. Sì, no, dico è vicino, quindi non è che... No, sì, no, per quello è vicinissimo. Non, io non ci sono ancora andato, ci voglio andare più tardi e vedere. E poi valutare un po' meglio e domani magari ne riparliamo, domani ci vediamo e ne riparliamo. Dunque, Domani fa il suo orario dalle sì, 11 alle sì. Dunque, nel primo capitolo, prima parte, io ci ho messo per un'analisi semiologica dell'economia finanziaria, che presuppone evidentemente qualche cenno sulla semiotica. Cos'è la semiotica? La semiotica è, come sappiamo, la scienza del linguaggio, la scienza del significare. La scienza dei segni. E la semiotica si fonda su una concezione secondo cui, e su alcuni concetti, che sono un concetto di segno, significante, significato e referente. Ora, questi concetti propri della semiotica paiono particolarmente adeguati per descrivere anche il sistema finanziario, il modello finanziario. E quindi la proposta che io faccio con questo corso è di leggere il sistema finanziario come se fosse essenzialmente un sistema semiotico. La cosa per molti aspetti funziona, come abbiamo visto. Funziona sul piano euristico, sul piano teorico, sul piano della ricerca di una spiegazione, di una modellistica, di una descrizione. C'è da vedere se funziona anche sul piano, diciamo così, pratico, politico, cioè ci servirà descrivere il denaro come linguaggio quando poi dobbiamo occuparci di una crisi finanziaria? Ecco, quello che stavo dicendo prima era una risposta a questa domanda. Stavo dicendo, sì, quello che dobbiamo fare è proprio questo. Quello che dovremmo fare, a mio parere, è proprio ragionare in termini non solo economici, perché qual è il limite dell'economia? Che l'economia dà per scontato che le leggi che governano l'agire umano siano quelle lì. La competizione, il profitto, ma chi l'ha detto che l'agire umano, il sapere umano, non possa funzionare secondo leggi diverse da quelle della economia? Lì, poi cos'è l'economia? Economia in greco oikos significa casa e nomos significa legge. Dunque l'economia sarebbe la legge della casa, la legge della gestione della nostra vita quotidiana. In realtà l'economia si trova fin da subito, fin dall'inizio dell'epoca moderna, di fronte ad un dilemma. Deve l'economia considerarsi come una scienza descrittiva o deve considerarsi come una scienza normativa? È una scienza normativa, in realtà è una tecnologia più che una scienza, cioè una scienza descrittiva è la fisica. Certamente la fisica cosa dice? Se io ho un oggetto solido e lo lascio casca per terra perché c'è la legge di gravità. Cos'è la legge di gravità? È una forza, è la definizione del rapporto tra la forza che attrae i corpi solidi e le reazioni dei corpi solidi. Quali sono le formule che è giù? Formule matematiche che ti spiegano quanto la Terra attira, quanto i corpi solidi. è così, non è che io posso dire no, bisogna che la legge di gravità adesso cambia, possiamo trovare delle tecnologie che ci permettono di sfuggire alla legge di gravità, per esempio siamo in grado di volare, ma questo non vuole dire che abbiamo cambiato la legge di gravità, la conosciamo benissimo, così bene che troviamo dei modi non per sfuggirle ma per controbilanciarla. Questa è una scienza descrittiva, la fisica, ok? Ma l'economia è proprio come la fisica? No, perché l'economia dice per esempio che se noi riduciamo le tasse ai ricchi, quelli investiranno di più nella produzione, il che talvolta capita, talvolta non capita affatto. E in realtà una frase di quel genere, una legge di quel genere non è una legge, è una intenzione politica. Chi vuole ridurre le tasse ai ricchi dice che in questo modo investiranno di più nella produzione. Chi invece non vuole ridurle dice l'esatto contrario. Fatto sta che l'economia è cosa provata che non è in grado di prevedere gli eventi come fa la fisica. La fisica è in grado di prevedere che ogni mattina il sole si alzerà. Poi magari un giorno il sole non si alza e in quel caso scopriremo che la fisica aveva sempre sbagliato. Ma se la descrizione astronomica è vera, come sembra sia, allora accadrà domattina a una certa ora, che possiamo anche calcolare al secondo, che il sole compare sull'orizzonte. Tac! Questo dice la scienza fisica e questo accade. La scienza economica fino a 4 anni fa ci diceva che il capitalismo sarebbe andato avanti perfettamente, anzi globalizzato, era sempre più forte, e da un giorno all'altro, un giorno che solo un economista che si chiama Paul Krugman aveva previsto, anche qualche altro, ma insomma pochi, è successo che quello che andava bene fino al giorno prima non va più assolutamente bene, anzi produce. Dunque l'economia non è in grado di prevedere. Perché non è in grado di prevedere? Perché non è una scienza, non è una scienza descrittiva. È una scienza normativa, cioè è una scienza, un sapere che norma, cioè che prende delle decisioni, che motiva queste decisioni sulla base di previsioni molto discutibili e tenta di applicarle. Ma perché l'economia, perché non riusciamo ad avere una scienza esatta dell'economia, come non riusciamo ad avere una scienza esatta della psicologia o della sociologia? Perché? Perché stiamo parlando degli esseri umani e gli esseri umani sono il soggetto della scienza, oltre che essere l'oggetto della scienza. E dunque gli esseri umani hanno una caratteristica piuttosto sfuggente per la loro medesima conoscenza, perché gli esseri umani cambiano, dispongono del linguaggio e il linguaggio è fatto per cambiare le regole. Per, sapete, i giochi. In teoria dei giochi si dice che vi sono giochi finiti e giochi infiniti. Cos'è un gioco finito? Gli scacchi. Negli scacchi è previsto che quando il re non può più muoversi, tu sei sconfitto. È previsto che il cavallo si muove così, 1, 2, 3, che l'alfiere si muove così, e che eccetera eccetera. Sapete le regole del gioco degli scacchi. Ora, tu ti metti a giocare, dopo 2 ore lui vince e tu perdi. No, io decido che non ho perso, prendo il cavallo e lo faccio muovere in un'altra maniera. Ma non stai più giocando agli scacchi. Il gioco degli scacchi è quella cosa lì. Non puoi cambiare le regole, altrimenti stai giocando un altro gioco, perché è un gioco finito. Pensate a un caso di innamoramento. Voi vi siete innamorati di una persona, fate delle regole, si fa così, poi capita che voi vi innamorate di un'altra o la persona in questione si innamora di un'altra, e quelle regole non valgono più, si ridiscutono tutte. O pensate alla guerra, E ci sono delle regole, però io per vincere la guerra non le rispetto, ti bombardo anche se avevamo stabilito che non dovevo farlo. E così, l'economia è così, cioè i giochi umani, i giochi nei quali è implicata la volontà umana e i giochi nei quali non sono, no, insomma, i giochi nei quali non c'è una regola che dica non si possono violare le regole, sono giochi aperti, giochi infiniti. Negli scacchi, come nel calcio, a un certo punto, c'è una regola che dice non si possono violare le regole, se violi le regole non stai più giocando quel gioco. Mentre l'economia, come l'amore, sono giochi nei quali non c'è nessuna regola che dica non si possono violare le regole, perché chi viola le regole sta semplicemente ridefinendole. Sta cambiando il gioco, ma è un gioco che si può cambiare, quello lì. Quello è un gioco che si può cambiare. E non vale stabilire delle regole, cioè vale, fino a un certo punto. La Costituzione, pensate alla politica, cos'è la Costituzione? La Costituzione è la regola che deve regolare i rapporti fra gli esseri umani all'interno della comunità politica. E dunque, dopo una rivoluzione, una guerra, si stabilisce una Costituzione. Quella Costituzione rispecchia un certo rapporto di forze, una certa mentalità, dei certi valori. Poi passano 60 anni e qualcuno dice, ma no, quell'articolo lì io non lo rispetto più, perché i rapporti sociali sono così cambiati che sono costretto ad agire in deroga a quella norma della Costituzione. E cosa si fa a quel punto? Alcuni dicono no, la Costituzione è inviolabile. Sta di fatto che la Confindustria la viola. Perché? Perché la Confindustria fa i fatti suoi, ha la forza per farlo, e dunque chi può impedirle in nome delle regole? Dal momento che nella vita politica ciò che conta in ultima istanza è la forza, non le regole. Anche se c'è una regola che dice non bisogna usare la forza, se usi la forza quella regola cambierà. Ecco, l'economia appartiene alla sfera delle scienze umane, che non sono propriamente scienze, nel senso che non sono scienze descrittive così come lo è la fisica. E dunque l'economia deve... da una parte tenere conto del mutamento della realtà umana, realtà culturale, realtà sociale, realtà, che ne so, atmosferica, cambiano i fattori che definiscono il quadro, e dunque cambia la regola economica. Allora, in questo sforzo che sto facendo è di dire che forse c'è una regola più profonda di quella economica, ed è quella semiotica, potrei anche dire quella antropologica, cioè quella che riguarda le forme della vita dell'essere umano, dell'essere culturale umano. Però possiamo dire anche che è a livello semiotico, a livello dell'intesa linguistica, che qualcosa di più profondo della regola economica accade. E dunque possiamo parlare dell'economia in rapporto alla semiotica, dell'economia rispetto in rapporto al linguaggio. Questo è il tentativo che stiamo facendo. Allora, a un certo punto io ho proposto di riflettere sul rapporto fra segno e referente, per capire cosa accade nella sfera dell'economia, e particolarmente per capire che cos'è l'economia finanziaria, ho proposto di ragionare sul rapporto tra segno e referente. E come tutti vedono, il segno che al proprio interno contiene un significante ed un significato, cioè un suono poniamo, il suono della parola albero o il grafo della parola albero se la scriviamo. Però la parola albero ha un significato, nel senso che suscita nella nostra mente diversi, io direi diverse catene sinaptiche. Se la parola albero stimola nel mio cervello delle connessioni neuronali, la dimensione fisica del significato è una connessione neuronale. Quando dico albero, un neurone di qua si mette in contatto con un neurone di là e gli viene in mente una cosa. O gli viene in mente l'albero genealogico, o gli viene in mente l'arrampicarsi, che ne so, però qualcosa che ha a che fare con l'albero. Dopodiché io esco di qui, cammino in quella direzione e, se non sto attento, sbatto la testa contro un referente. Il referente è di legno, ha delle foglie, è quello là, ma non lo posso dire in nessuna maniera. Il referente non è un segno, eh? Il referente è la cosa. Ora, noi però sappiamo che la semiologia, la semiotica, è la scienza che studia il rapporto fra i segni che noi emettiamo e la realtà che sta là fuori. Questo rapporto è un rapporto molto delicato. I semiotici non sono tutti d'accordo su cos'è il rapporto fra segno e referente. Forse che il segno riproduce il referente? No, niente affatto. Tant'è vero che un tedesco direbbe, non lo so, un inglese direbbe tree, un francese direbbe arbre. Come si dice albero in tedesco? Boh. Quindi, che rapporto c'è tra tree e albero? Sono due segni completamente diversi dal punto di vista fonico, grafico. E però mettono in moto la stessa catena significativa, semantica. La semantica è lo studio del significato, per l'appunto, e rimandano lo stesso referente. Ma dunque il referente è oggetto dell'attenzione del segno grazie ad una convenzione. Noi abbiamo imparato che alla parola albero corrisponde un significato che si rimanda ad un certo referente. Ora, quel che ho cercato di dire, sto cercando di dire, è che nella sfera economica c'è un oggetto che è il denaro, che svolge una funzione per molti versi simile alla funzione del segno linguistico, in quanto il denaro implica un significato. Il significato è il lavoro che noi abbiamo speso per accumulare quel denaro, o comunque le operazioni, abbiamo rubato, qualcosa abbiamo fatto per disporre di quel segno, e ciò che abbiamo fatto per ottenere quel segno, lavorare, intraprendere, accumulare, risparmiare, rubare, creare, inventare, ciò che abbiamo fatto per ottenere quel segno è il significato di quel segno. Ma a cosa si riferisce? Cosa ci dà quel segno? Ecco, quel segno ci dà ciò che con il denaro, il referente di quel segno, dovrebbe essere la realtà che quella massa di denaro ci permetterebbe di comprare. E dunque il referente è l'ammontare di valore economico reale che corrisponde al carattere semiotico nominale del denaro di cui noi disponiamo. Ecco, questa descrizione, per quel che vale, ci permette, se non altro, di capire che, come nel linguaggio, così anche nell'economia, il rapporto fra segno e referente non è né un rapporto naturale, dato in eterno, né un rapporto immutabile, è un rapporto che può mutare e che di fatto cambia continuamente. Ci sono dei fenomeni che in economia si chiamano inflazione o deflazione, per esempio, per cui il rapporto tra il segno e il segno denaro e ciò che questo segno può comprare, la realtà che questo segno può, a cui può riferirsi, questo rapporto cambia. Nell'inflazione cambia per il fatto che per comprare una certa cosa occorre sempre più denaro. Dunque il segno denaro perde valore rispetto alla realtà che esso dovrebbe poter comprare. Ecco, l'analogia che abbiamo istituito, la metafora semiotica, diciamo così, che vi propongo per definire il denaro, metafora, ecco, questo è un buon modo di esprimersi, poi vediamo cos'è una metafora. La metafora semiotica ci è utile intanto perché ci permette di descrivere il denaro in una maniera diversa da quello che ci propone l'economia, e in secondo luogo perché ci dà la possibilità di comprendere alcuni fenomeni economici, ad esempio la crisi, utilizzando degli strumenti concettuali che non sono quelli della crisi. Metafora, ho detto. Cos'è una metafora? Metaforein in greco vuole dire portare altrove, trasportare. E dunque metafora è una figura del linguaggio, una figura retorica, che ci permette di trasportare altrove un certo significato, di dire una cosa dicendone un'altra. Per esempio, se io dico sei come una rosa, sei come una rosa è una similitudine, l'abbiamo già detto, il cielo carico di dolore, evidentemente il cielo non può essere carico di dolore, il cielo carico di paura, il cielo non è carico di paura, ma io esprimo attraverso una metafora il fatto che il cielo è portatore di un sentimento che io assimilo alla paura, però vorrà dire che il cielo è scuro, che il cielo è tempestoso e così via. Dunque, una metafora è la trasposizione di un significato attraverso il trasporto, quasi, di un significato attraverso un significante che non va interpretato letteralmente. Abbiamo una metafora ogni qualvolta noi non dobbiamo interpretare letteralmente, ma dobbiamo capire che cosa ci si vuole dire dicendoci qualcosa di differente. Poi naturalmente la metafora assume possibilità infinite, perché le figure retoriche sono in generale figure che traspongono un significato attraverso l'ironia, è una trasposizione, l'iperbole è una trasposizione, è uno spostamento di significato. Allora io faccio una metafora quando dico che, o faccio una similitudine, propongo comunque una metafora quando dico che possiamo interpretare il denaro come una forma semiotica. Le metafore ci servono però per vedere cose che non vediamo quando ci limitiamo ad utilizzare un linguaggio letterale, un linguaggio puramente limitato ai significati letterali delle parole che utilizziamo. Per cui, descrivendo il denaro come una forma semiotica, riusciamo ad esempio a capire che cos'è il processo di finanziarizzazione. Anzi, per dire la verità, i teorici, ad esempio questo qua, Christian Marazzi, che fra tutti è quello che ha detto più cose e più interessanti sul tema di denaro e linguaggio, è grazie alla metafora linguistica che si riesce a spiegare la finanziarizzazione. Ma d'altra parte è proprio quando il fenomeno di finanziarizzazione comincia a rivelarsi così potente e così pericoloso che alcuni economisti, come Marazzi, cominciano a dire: bisogna che spieghiamo il denaro partendo dal linguaggio. Perché? Cos'è la finanziarizzazione? Cos'è il finanziario? Cos'è la finanza? Ho letto da qualche parte che la parola finanza viene dal latino finis anti, fine dell'essere anti, fine della inimicizia. La finanza sono gli accordi che si prendono alla fine di una guerra. Però la finanza, oltre a finire le guerre, comincia anche a dire la verità. Comunque, cos'è la finanza? La finanza è una trasposizione delle dinamiche, dei processi economici in termini, non posso dirlo altrimenti, in termini semiotici, in termini semici. La finanza è una trasposizione dei processi economici attraverso il denaro, è una traduzione dell'economia reale o economia produttiva, una traduzione in termini monetari di processi che si svolgono a livello materiale, reale. Noi spostiamo tonnellate di ferro, trasformiamo tonnellate di ferro in automobili o in penne biro, questo è un processo di produzione reale. Noi studiamo, comprendiamo, inventiamo delle tecniche che ci permettono di comunicare a distanza o di operare l'appendicite, e questo è un fenomeno produttivo reale. Però se vogliamo poi scambiare questi prodotti dell'intelligenza e del lavoro, abbiamo bisogno di segni, abbiamo bisogno di dire: questo vale $1,000. E così possiamo trasferirlo da un punto ad un altro. È naturale che sia così? No, nulla è naturale. È naturale la forza di gravità, ma non è naturale la traduzione finanziaria dell'economia. Non è naturale nulla di ciò che accade nel mondo umano, perché come sappiamo il mondo umano è umano perché nasce dal superamento della barra fra natura e cultura. Tutto ciò che accade nell'umano è prodotto di... prego vieni, tira quella porta, pare che qualcuno cerchi di aprire. Gli antropologi distinguono tra natura e cultura nel senso antropologico. Sì, bisogna andare a procurarsi le risse. Distinguono tra natura e cultura, oppure sedersi sul tavolo. Là c'è un tavolo comodo. E in che senso gli antropologi distinguono tra natura e cultura? Cultura nel senso di culture, cioè di so che sapete l'origine etimologica della parola cultura è latina e l'origine di questa parola è colere. Colere significa, o colere forse, significa coltivare. Cultura, la cultura, è l'attività del coltivare. La natura è ciò che cresce spontaneamente senza che nessuno ci metta intelligenza o lavoro. La cultura è ciò che viene trasformato dall'intelligenza umana applicata in forma di tecnologia, in forma di lavoro. E dunque la sfera dell'economia non è una sfera naturale, è una sfera trasformata dall'intelligenza umana, dalla tecnologia, dal lavoro e dal linguaggio naturalmente. Allora, per questo dicevo l'economia non è naturale, non è eterna, cambia. E ad un certo punto gli uomini, tanto tempo fa, diciamo 5.000 anni fa, gli uomini decidono di scambiare i prodotti del loro lavoro attraverso danaro, l'elettro, uno del denaro che usavano in una civiltà pre-greca o le prime forme di scambio, o il sale addirittura, no? Il sale che viene utilizzato come mezzo di scambio forse per molti millenni. E dunque si comincia a significare, perché quando tu dici capra, vuoi la mia capra? Dammi del sale. Dunque capra uguale sale, questo si chiama significare. La capra significa 80 kg di sale. Bene? E dunque, in questo, nel monetizzare la capra, che è prodotto del mio lavoro, perché la capretta non sarebbe cresciuta così bella e allegra se io non mi fossi occupato di lei, gli avessi dato cosa si dà da mangiare alle capre, adesso mi dimenticato. E dunque l'atto dello scambiare una capra per denaro è un atto di significazione, introduzione di un segno, denaro, che significa capra. Inizia un processo di traslazione del mondo delle merci nel mondo del denaro, cioè di un segno che traduce le merci attraverso un linguaggio. Ma diciamo, per millenni gli esseri umani hanno scambiato dei referenti, capre, automobili, disponibilità affettiva e così via, in cambio di denaro, ma il centro del processo produttivo era la cosa, l'economia industriale, l'economia agricola, ma anche l'economia industriale, è essenzialmente produzione di beni industriali. In realtà noi sappiamo che quando l'economia industriale diventa capitalistica, il capitalista non produce automobili perché gli piacciono le automobili, produce automobili perché questo gli permette di accumulare valore, cioè di ricavare un profitto che aumenta il capitale investito all'inizio. Dunque l'attività economica industriale diventa capitalistica nel momento in cui il valore accumulato in forma di capitale diventa il bene, il fine, lo scopo dell'attività economica capitalistica propriamente intesa, però nell'epoca industriale per poter accumulare capitale era necessario produrre delle automobili, delle penne, delle bottiglie, dei vestiti, vendere il proprio corpo, vendere il proprio tempo, vendere la propria intelligenza, cioè delle cose, dei referenti. C'è la finanza, perché questi referenti vengono significati attraverso il segno danaro, ma la finanza è uno strumento atto a fluidificare il processo di produzione. Dunque la finanza c'è, è importante, rende possibile ad esempio il credito, ma è funzione della produzione di beni. Cos'è il credito? È quella cosa per cui io ho un'idea, posso fare una cosa così così che mi frutterà molti soldi. Vado in banca, gli dico: quell'idea mi farà avere molti soldi, dunque datemi dei soldi, io ve li restituirò. Il banchiere mi ascolta, ci crede, poi magari gli va fatta male o gli va fatta bene, spesso gli va fatta bene, quindi io gli restituirò i soldi con degli interessi e nel frattempo la mia idea mi ha fatto guadagnare. Come vedete, il credito è funzione dell'impresa, cioè il denaro è funzione del referente prodotto, il segno danaro è in funzione di un referente, un prodotto. Noi parliamo di finanziarizzazione dell'economia quando le cose si ribaltano, non è più il segno in funzione dell'espansione del mondo delle cose. Ci potrà piacere o non piacere perché c'è sfruttamento, eccetera, però il capitalismo industriale ha prodotto male, ci ha fatto soffrire, ci ha sfruttato, tutte cose verissime, però ha prodotto un mondo. Per alcuni quel mondo non è accessibile e quindi è un'ingiustizia, ma c'è un mondo che è stato prodotto in 500 anni di sviluppo capitalistico, industriale. Ora, tutto un tratto, a partire da un certo momento, che è difficile da situare, però si possono fare delle ipotesi, si possono analizzare i passaggi storici che portano al rovesciamento del rapporto fra industria e finanza. Io ho accennato ad alcune cose, una decisione che prende un presidente americano che si chiama Richard Nixon nel 1971, ad una serie di eventi che però non mi interessano, poi parleremo di storia, però ad un certo punto noi vediamo che la variabile finanziaria, il segno, è sempre di meno funzione dell'espansione del mondo delle cose, il referente, e sempre di più il referente scompare. Non c'è più bisogno di produrre qualcosa, è sufficiente agire sulla circolazione del segno perché il segno si gonfi. Cioè io investo 1000 in un certo uno swap, che vuole dire, non mi ricordo più bene, ma vuole dire che io investo i miei soldi sulla scommessa che l'economia greca fallirà entro i prossimi 3 mesi, perderà il 5%. Se la Grecia perde il 5%, il mio capitale aumenta di una certa cifra. Perché? Perché c'è un'assicurazione che mi garantisce questo. E se succede questo, è evidente che il mio denaro aumenta senza che io abbia dovuto compiere quel fastidioso lavoro consistente nel produrre qualcosa. Io non ho prodotto niente, ma il mio capitale si è espanso, si è accresciuto, si è verificata un'accumulazione senza produzione di merci. Ora, questo è ciò che possiamo chiamare finanziarizzazione e possiamo descriverlo in termini semiotici, dicendo che il referente viene, per così dire, evacuato, dimenticato, e i segni acquistano un significato semplicemente per forza di eccitazione. Per fare lo spiritoso, a un certo punto mi è venuto da dirvi qualche giorno fa, ma lo ripeto adesso perché è una spiritosaggine che forse vale la pena di essere considerata, che la storia dell'arte del XX secolo, se è esattamente questo, pensate ai simbolisti, agli impressionisti e poi a tutta la storia dell'arte astratta, uso questa espressione, astratta rende l'idea. Cosa vuol dire astratto? Vuol dire indipendente dal referente. E i simbolisti fanno proprio questo gesto linguistico che consiste nel dire: la parola non deve più significare la cosa, non deve più rappresentare o riprodurre un referente, deve evocarlo. La potenza della parola, i simbolisti parlano di epifania, cioè manifestazione, evocazione, emergere dal nulla. E l'arte moderna ha creato dal nulla. Il XX secolo è stato il secolo di una vera creazione, non più rappresentazione come nell'arte raffigurativa presimbolista. E ammesso che mai sia esistita un'arte rappresentativa, che non credo, ma questo è un altro discorso. Nell'ideologia degli artisti, prima del simbolismo, si trattava di riprodurre il mondo. Dal simbolismo in poi l'artista dice: ma noi non siamo qui per riprodurre il mondo, che bisogno c'è? C'è la fotografia, tra l'altro, che lo fa meglio di noi, quindi noi faremo un altro lavoro. E qual è il lavoro degli artisti? Richiamo qui la vostra attenzione per farlo spiritoso, ma anche perché forse qua noi troviamo un aspetto scarsamente considerato della ricchezza contemporanea e della ricchezza dell'arte, ad esempio. E cosa fanno gli artisti? Evocano un mondo, creano un mondo, come dice Mallarmé. Mallarmé parla proprio di questo. Io non dico rosa perché voglio rappresentare la rosa, ma perché la parola rosa evoca la presenza di qualcosa che non c'è. E non occorre nemmeno che io dica rosa. Io posso dire qualcosa che non ha nessun significato referenziale, rappresentativo, e questo qualcosa evocherà una immagine, una realtà, perché poi in fondo ciò che accade nello spazio della comunicazione fra esseri umani è una cosa, una realtà. Tutta la storia dei media elettrici, dei media virtuali del XX secolo è una dimostrazione della potenza dell'intuizione simbolista. I simbolisti hanno intuito che il linguaggio può creare, non solo rappresentare, non solo raffigurare, non solo riprodurre, ma creare. Il linguaggio può creare e infatti ha creato. Cos'altro fa il cinema, la televisione, la rete, la realtà virtuale, se non creare a partire di linguaggio qualcosa che non c'era precedentemente? Bene, nel corso degli ultimi decenni del XX secolo questa potenza creativa del linguaggio si trasferisce nella sfera dell'economia. Se può accadere, vuole dire che l'economia qualcosa a che vedere con il linguaggio ce l'ha. Il denaro è linguaggio, è astrazione, lo è fin dall'inizio. Quando io dico capra uguale sale, sto astraendo dalla capra per individuare qualcosa, un equivalente generale che mi permetta di avere capre, pane e martelli. Dunque il sale astrae dal referente, per dire, tutti i referenti possibili. Dopo 10.000 anni, quando il sale si è trasformato in una carta di credito, cioè in un segno totalmente astratto, qualcosa che non esiste da nessuna parte, perché se voi perdete la vostra carta di credito, telefonate per avvertire che altrimenti qualcuno la usa al posto vostro, ma 2 ore dopo la avete nuova, perché il credito non sta in quel pezzo di carta, sta in un algoritmo depositato in una banca che fino a quando le banche non dichiareranno fallimento, fra poco, la vostra carta di credito vale. Vale il credito che sta scritto in quella stringa elettronica, totalmente astratta, non è nemmeno sale e nemmeno una banconota, è semplicemente una l'attivazione di un credito virtuale di cui voi disponete. Ecco, giunti dal sale alla carta di credito, il problema è che alla fine di questo processo la finanza comincia a dimenticare attivamente, consapevolmente, intenzionalmente, a dimenticare di essere significazione di qualcosa. Cioè la finanza comincia a dire: non c'è più bisogno di mettere in moto un processo, quello che gli economisti descrivono con la formula, non so se vi è mai capitato di vederla, DMD, che vuol dire denaro produce merci, le quali producono più denaro. Questa è la formula dell'economia industriale classica, il denaro produce delle cose che scambiate produrranno più denaro. Ad un certo punto la finanza stabilisce che non c'è bisogno di fare tutta questa fatica. Il denaro viene investito in valori puramente immateriali, puramente finanziari, puramente semiotici, e se questo investimento è fatto in maniera adeguata e diciamo coglie una tendenza di una dinamica puramente semiotica, tu alla fine avrai più denaro. Se sbagli nell'individuare la tendenza puramente semiotica, ne avrai di meno, perdi tutto. Ma se sei capace di giocare quel gioco nel quale non si produce nessuna merce, anzi spesso se ne distrugge, diciamo il rapporto tra significazione e referente diventa un rapporto aleatorio. Non è necessario che il denaro produca merci per diventare più denaro. Il denaro può fare tante cose, talvolta può produrre merci. Non è scomparso l'imprenditore, c'è ancora qualcuno che prende il denaro, lo investe in una fabbrica, produce delle merci e prende più denaro o meno. Però puoi anche fare un'altra cosa. Puoi investire il denaro in denaro, in banca, no, in valori che non producono nulla se non previsioni e scambi puramente finanziari, alla fine avrai più denaro. Ma puoi fare un'altra cosa addirittura, che è la più straordinaria di tutte. Puoi investire il tuo denaro nella distruzione di beni. Se tu prevedi che una certa economia andrà male, quindi che verranno distrutti dei beni, e quell'economia va male davvero, tu avrai più soldi. Ma attenzione, che se io prevedo che l'economia greca andrà male e io sono un grande investitore, influenzerò molta gente, molti altri mi seguiranno, diranno: oh, quello lì ha detto che l'economia greca va male, aspetta bene che ritiro i miei soldi dall'economia greca. L'economia greca andrà male davvero, come io avevo previsto. E dunque, distruggendo il valore reale di quell'economia, io guadagnerò più denaro. Ecco che la finanziarizzazione consiste in una, se posso dirlo così, emancipazione del processo di valorizzazione del capitale dalla produzione di beni. Diciamolo in linguaggio semiotico, in termini semiotici. Finanziarizzazione è quel processo per cui il significante parte danaro può incrementare, anzi no, per cui il segno danaro può incrementare il proprio significato finanziario, può aumentare di valore anche senza produrre alcun referente, anche senza riferirsi ad alcun referente. Ecco come noi abbiamo descritto in termini semiotici il processo di finanziarizzazione. Ma il processo di finanziarizzazione è un processo semiotico, perché è un processo in cui la semiotica, il linguaggio, l'astrazione linguistica invade sempre più attivamente, sempre più largamente la sfera stessa della produzione di valore economico. Allora, io adesso interromperei per un quarto d'ora, e poi fra un quarto d'ora riprendiamo e continuiamo per un'altra mezz'oretta. Intanto qua c'è il foglio delle presenze. Chi non ha ancora scritto, ad esempio, mi pare di, ci siamo mai visti? No, è un vero piacere. E scriva il suo, la prima volta che incontro una persona, gli do del lei. E il suo indirizzo email, così entrerà nella lista e riceverà dei messaggi generalmente inquietanti. E arrivederci fra un quarto d'ora.